Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una buona festa della liberazione a tutti. Oggi 25 aprile, siamo in onda oggi solamente fino alle 18, una giornata festiva, insomma la versione di Focus Economia è lievemente più breve. Di che cosa parleremo oggi? Allora, ve l'ha già annunciato Gigi Donelli in GR24 poco fa, ovviamente parleremo ampiamente di Alitalia. Che cosa è successo? Ormai lo sapete, i lavoratori hanno bocciato con un'ampia maggioranza il preaccordo che era stato stilato dai sindacati e dall'azienda, un preaccordo che prevedeva il via libera ad un piano industriale sul quale oggettivamente non c'erano moltissimi dettagli, ma che complessivamente prevedeva una riduzione del costo del lavoro molto forte. Questa riduzione del costo del lavoro prevedeva 980 esuberi, tagli anche agli stipendi, in media intorno all'8%, in alcuni casi si arrivava addirittura al 30%, è stato bocciato pesantemente dai lavoratori. Che cosa succede adesso? Succede che gli azionisti di Alitalia, per procedere all'aumento di capitale, avevano posto come precondizione appunto l'ok a questo accordo, e dunque inevitabilmente sembra che adesso si vada verso il commissariamento. Il governo ha escluso fino adesso la possibilità di una rinazionalizzazione di Alitalia, anche se da alcune parti viene richiesto esattamente questo, in particolare da alcune parti sindacali, in particolare i sindacati autonomi. Dall'altra parte, a complicare la questione, ci si mettono fonti europee, le quali riferiscono che l'Italia, il nostro paese, potrebbe chiedere nuovamente aiuti di Stato per quanto riguarda l'ex compagnia di bandiera, e quindi c'è da giurarci che dopo queste parole che sono arrivate a Bruxelles qualcuno chiederà appunto che il nostro paese chieda aiuti di Stato. Questo il quadro della situazione. Però al di là del punto specifico, al di là di questo preaccordo, c'è evidentemente un problema, e ovviamente tratteremo della cronaca di queste ore, anche di quello su cui stanno ragionando gli azionisti che, come si diceva, non parteciperanno o non vogliono partecipare all'aumento di capitale. Guarderemo un po' più avanti, guarderemo un po' più alla strategia per Alitalia, insomma, che cosa è stato sbagliato in tutti questi anni nei quali regolarmente Alitalia ha accumulato perdite dal 2009, dai 327 milioni del 2009 fino ad arrivare ad oggi, secondo i dati di Mediobanca ha calcolato che dal 2007 al 2014 l'onere per le casse pubbliche è stato di quasi 7 miliardi e mezzo di euro, e dunque anche in un'ipotesi di nuovo intervento statale bisognerà capire se veramente i contribuenti saranno disponibili ad un nuovo intervento statale in Alitalia. Ne parleremo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore e con Mario Sebastiani, un docente a Tor Vergata ed è anche editorialista del Sole 24 Ore. Ci occuperemo di mercati. L'ultima notizia arrivata poco fa è che il Dow Jones è tornato a superare i 21.000 punti, un livello che non si vedeva dal 16 di marzo, e tutto questo ha dato anche una spinta alle borse in questa giornata. Più 0,64% il FTSE MIB, più 0,63% il FTSE All Share, con Parigi che guadagna lo 0,24%, Francoforte lo 0,18%, l'America appunto ha il Dow Jones che guadagna l'1,13%, per quanto riguarda Londra invece il guadagno è dello 0,22%, con i titoli per quanto riguarda Milano tra i migliori S&T Microelectronics, ma ci arriveremo più avanti, UBI Banca più 3,47%, Saipem più 3,34%, 4 BPM più 3,25%, CNH più 2,92%, Unicredit più 2,6%, quindi alcuni bancari. In negativo invece troviamo Snam meno 2,5%, Atlantia meno 2,47%, in parte collegato alle vicende di Alitalia, e anche qua ci arriveremo. Terna meno 1,5%, Italgas meno 1,45%, Exor meno 1,05%. L'altro tema che affronteremo oggi in questa puntata, che come vi dicevo è un po' più breve, sarà il tema della Francia. Ci torneremo perché il fenomeno che abbiamo visto in Francia dal punto di vista della distribuzione geografica del voto è per molti versi simile a quello al quale abbiamo assistito in Gran Bretagna quando si è votato per la Brexit e negli Stati Uniti quando si è votato per l'elezione del Presidente della Repubblica. Cioè una serie di aree del paese, in questo caso della Francia, ma lo stesso è avvenuto per la Gran Bretagna e per gli Stati Uniti, una serie di aree del paese che hanno vissuto in maniera più pesante l'impatto della globalizzazione o la pressione migratoria, hanno votato in maniera molto forte per la Le Pen, mentre invece a Macron sono andati prevalentemente i voti delle città e delle aree del paese che stanno un po' meglio, che hanno vissuto invece i benefici della globalizzazione, perché la globalizzazione ha avuto anche tantissimi benefici. E cercheremo di affrontare questo tema perché ormai è una tendenza che ci sembra che si stia delineando in maniera energica, ormai da qualche anno a dire il vero, però la Francia ne è ancora una volta una dimostrazione. Di tutto questo parleremo tra poco, partiremo da Alitalia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Come sempre, le notizie in breve di oggi. Allora, i dati ci indicano di oggi, iniziamo con le materie prime, dalle materie prime come sempre, il petrolio col WTI con consegna a giugno in lieve calo, meno 0,37% a 49,05 dollari al barile. Per quanto riguarda il Brent, sempre consegna a giugno, il petrolio del Mare del Nord in calo dello 0,23% a 51,4 dollari al barile. Per quanto riguarda l'oro, invece un calo dello 0,6% a 1267 dollari l'once. Iniziamo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, vabbè, vi dicevamo poco fa dei dati che sono arrivati dalla borsa. Dow Jones a sopra i 21.000 punti, non era così dal 16 marzo. I dati in realtà oggi dall'America sono un mix, perché se da una parte aumentano le vendite di case nuove a marzo, un più 5,8% al di sopra delle attese degli analisti, dall'altra parte la fiducia dei consumatori misurata dal Conference Board in aprile scende a 120,3 punti sotto le stime degli analisti. Nonostante questo, come avete sentito, insomma, le cose vanno bene sui mercati. Forse anche in forza delle indiscrezioni che stanno circolando sul piano fiscale promesso da Donald Trump, e che forse arriva ad una stretta finalmente, perché Trump avrebbe ordinato ai suoi consiglieri di ridurre le tasse per le imprese dal 35 al 15% nelle linee guida della riforma fiscale che dovrebbe presentare domani e che rappresenta una delle sue principali promesse elettorali, una promessa che rischia però di aumentare il deficit pubblico. Anche se il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin ha assicurato che la riforma fiscale genererà una crescita tale da non incidere sul deficit di bilancio. Oh, a proposito degli Stati Uniti, c'è questo comunicato stampa che appare sul sito della Casa Bianca, un po' da Istituto Luce, se è consentito. Ed è il comunicato sui 100 giorni di Donald Trump, la lista della Casa Bianca dei risultati storici. 100 giorni di storici traguardi del presidente Trump. Si tratta di tre capitoli in particolare messi in evidenza dalla Casa Bianca come aree nelle quali l'azione di Trump ha superato quella degli altri presidenti. Per il capitolo sgomberare il campo dal governo si sottolinea che Trump ha fatto di più per impedire al governo di interferire nelle vite degli americani più di qualsiasi altro presidente della storia in 100 giorni. Riguardo poi all'azione esecutiva, si nota come Trump ha conseguito più di qualsiasi altro presidente da Franklin Delano Roosevelt. E lista di esempi a corredo, e poi c'è il capitolo che viene definito un sacco di leggi firmate, non male questo, più di chiunque da Truman. Tra l'altro nel frattempo il presidente americano sarebbe disposto ad ammorbidire la sua posizione in merito ai finanziamenti per la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, fino ad ipotizzare un rinvio a settembre della decisione sullo stanziamento di fondi. È quello che scrive il Washington Post, citando una conversazione privata tra il presidente e alcuni giornalisti di area conservatrice. E però interviene come di consueto con un tweet Trump e dice: non lasciate che i fake media vi dicano che ho cambiato la mia posizione sul muro, sarà costruito e contribuirà a fermare droga, traffico di esseri umani, eccetera. Oh, il tema qua resta però quello del finanziamento di questo benedetto muro, perché Trump, lo ricorderete, voleva farlo pagare tutto ai messicani, l'aveva detto con un tweet roboante in campagna elettorale, e però pare invece che su questo ci sia veramente un ammorbidimento, insomma. Muro si fa, e però non lo pagano tutti i messicani. Comunque sono anche questi elementi di trattativa, si spara alto per poi arrivare, come dire, a una sorta di accordo. Google rilancia la lotta alle fake news, alle notizie false, alle bufale, ai contenuti online offensivi, violenti o fuorvianti che talvolta compaiono nei risultati del motore di ricerca, e annuncia cambiamenti strutturali all'algoritmo che ne regola il funzionamento. Il motore online, fa sapere l'azienda, punterà a privilegiare sempre più pagine web di qualità. Ad esempio assegnando un peso maggiore a fonti autorevoli e tenendo sempre più conto delle segnalazioni umane sui contenuti inappropriati. La novità che coinvolge più direttamente gli utenti riguarda gli strumenti di feedback su due funzioni Google: il completamento automatico delle ricerche, finito sotto i riflettori per aver dato anche suggerimenti razzisti e sessisti, e gli snippet. Cosa sono? Sono dei frammenti che estrapolano dal motore di ricerca brevi contenuti, non sempre da siti pertinenti o autorevoli. Ma un filo di perplessità c'è, in tutta sincerità, che un po' facendo montare tutta questa vicenda delle bufale, delle fake news, chiedendo un intervento a quelli che di fatto sono i distributori dell'informazione come Google, come Facebook e come molti altri, non gli stiamo, consentitemi le virgolette, il paradosso, stiamo consegnando ad alcune aziende di fatto le chiavi della verità, cioè di quello che noi troviamo su internet e che possiamo considerare vero e credibile. Oh, ancora dall'estero si sta avvolgendo il G20 delle donne, così chiamato, a Berlino, al quale partecipano fra le altre Angela Merkel e Ivanka Trump. Parla Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Più uguaglianza, dice, porta più crescita e posti di lavoro, per questo abbiamo bisogno delle donne al tavolo, aggiunto, rivolgendo un appello agli stati perché rafforzino la possibilità di partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dell'imprenditoria. La vicenda di Vivendi, poi magari arriveremo a toccarla quando ci occuperemo dei mercati. Più avanti abbiamo le dichiarazioni di Vincent Bolloré durante l'assemblea degli azionisti a Parigi. Ha detto: una costruzione come quella di Vivendi non si fa in un giorno, per quello che facciamo ci vuole tempo. C'è un progetto industriale ambizioso, Roma non si è costruita in un giorno, ma siamo sulla buona strada. E a proposito di Roma, Roma è entrata ovviamente anche nei temi dell'assemblea di Vivendi. Dice Bolloré: la legge Gasparri dice che non possiamo avere due società, Mediaset e Telecom. Non abbiamo capito come potremmo assumere il controllo di Mediaset, che è controllata dalla famiglia Berlusconi. Ci adatteremo chiaramente a tutto quello che ci viene richiesto, dice Bolloré. Tra l'altro il numero 2 di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, al termine dell'assemblea generale ha parlato di grande amicizia tra Francia e Italia, ha ricordato, evocato esempi di business franco-italiano riusciti, Luxottica e Silor, Mondadori e MAP, anche ha detto di aver incontrato nelle scorse settimane il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Un ministro, ha detto, competente, ha poi precisato di aver visto anche altri membri dell'esecutivo, di cui però non ha fatto il nome, ma non il premier Paolo Gentiloni. E da segnalare che De Puyfontaine dice anche che con Mediaset non è cominciata benissimo. E lo abbiamo visto, insomma, siamo per tribunali, ma il nostro obiettivo è creare una relazione costruttiva e perenne. La nostra ambizione resta invariata per costruire contenuti latini a forte valore. Il meglio deve ancora venire, ha aggiunto. E ancora sul filo della metafora, costruire nell'interesse di tutti, ma bisogna essere in due per ballare il tango, dice De Puyfontaine. I dati che arrivano da Eurostat, infine, nel 2016 il tasso di impiego generale nell'Unione Europea nella fascia tra 20 e 64 anni ha raggiunto il nuovo livello record con il 71,1%, in aumento di un punto percentuale rispetto al 2015, 70,1, e al precedente picco registrato nel 2008, 70,3%. L'Italia, che ha l'obiettivo del 67% nel 2020, è terz'ultima con il 61,6% del 2016, comunque in crescita dal 60,5% del 2015. Parliamo del tasso di occupazione in questo caso. Gli obiettivi in realtà di Europa 2020, che sono questa serie di obiettivi che appunto si è data l'Unione Europea su una serie di elementi, tra cui l'occupazione, indicano almeno il 75% di occupati entro il 2020. Ma gli obiettivi sono stati già raggiunti o superati in 7 paesi. Ve li cito: Valla Pena, Repubblica Ceca, Estonia, Lituania, Irlanda, Lettonia e, ovviamente, Svezia e Germania. Veniamo al primo tema di giornata, che è quello di Alitalia. Ad Alitalia, Già qualcuno commenta con un po' di rabbia, qualche ascoltatore ci scrive al 349-238-6666, il no dei lavoratori all'Alitalia, dell'Alitalia, anche uno schiaffo a tutti quei cittadini che non hanno lavoro. Non sappiamo se è davvero così qua, le interpretazioni divergono, perché poi c'è anche un tema di piano industriale, oltre che di piano di tagli di personale, di esuberi. Fatto sta è che al sì a questo referendum, che alcuni consideravano un ricatto, nel senso che gli azionisti all'Italia hanno detto: ragazzi, o c'è il sì a questo piano anche di contenimento dei costi sul lavoro, oppure non ricapitalizziamo. Tra questi, le banche. Marco Ferrando, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera, eccoci qua. Ciao, buonasera a tutti. Allora, perché CAI, compagnia aerea italiana, lo ricordiamo, è che ha il 51% di Alitalia, mentre Etihad ne ha il 49%, è al 32% passa di Unicredit e al 32% passa di Intesa San Paolo. E ovviamente le banche non sembrano avere alcuna intenzione di intervenire, di ricapitalizzare Alitalia in questa situazione sindacale. Sì, perché essenzialmente già negli ultimi giorni le due banche avevano posto come condizioni la sostenibilità del piano, per cui in questi anni entrambi, sia Intesa e Unicredit, negli ultimi tre anni più o meno metà e metà, hanno iniettato moltissimi soldi, intorno al 500 milioni tra capitale e debito poi convertito in capitale. La condizione loro era non dover correre il rischio di fare altrettanto in futuro. Pertanto la loro condizione era: noi facciamo quest'ultimo sforzo unicamente se il piano è sostenibile, quindi vuol dire che non richiederà nuovi interventi. E per la sostenibilità del piano l'intervento sul costo del lavoro era fondamentale. Un piano che prevedeva una crescita dei ricavi a giudizio degli esperti molto ottimistica, ma anche un fortissimo intervento sulla riduzione dei costi, essenzialmente tramite l'intervento sul costo del lavoro. Con il no dei lavoratori evidentemente questa parte non è attuabile, quindi la sostenibilità evidentemente non c'è, quindi le banche si tirano indietro. A proposito di esperti, il professor Mario Sebastiani, docente di economia della regolamentazione della concorrenza all'Università di Tor Vergata, editorialista del Sole 24 Ore, che oggi firma appunto un articolo dedicato alla vicenda di Alitalia proprio sul Sole 24 Ore. Professor Sebastiani, buonasera. Buonasera. Allora, diceva Marco Ferrando, insomma, un po' ottimistica nel piano industriale, come dire, l'idea di ricavi che è stata presentata. Lei cosa dice? Perché qua il tema è: sì, certamente, i lavoratori nel referendum dicono no, pongono dei problemi che sono a questo punto essenzialmente finanziari, e che sono finanziari ma fondamentali anche evidentemente dal punto di vista industriale. Dall'altra parte però mi sembra che lei dica nella sua analisi di oggi, manca un po' una visione di lungo periodo e un'idea di davvero dove possa essere il mercato di questa azienda, no? Ma è esattamente così, è sempre mancata da 20 anni a questa parte, da 15, diciamo, a questa parte, una visione di lungo periodo, e non mi pare che le cose siano cambiate, non mi sembra affatto che le cose siano cambiate. E prendendo spunto anche da quello che stava appunto argomentando il dottor Ferrando, io credo che i sindacati abbiano grandissime responsabilità nel passato, nel difendere i propri privilegi in modo sordo e direi cieco. In questo caso qua qualche riserva nel gettargli addosso la croce io ce l'ho, perché è chiaro che tutto questo drammatizza, il loro rifiuto di accettare le nuove condizioni drammatizza il tutto. Però il problema, a mio avviso, non è questo. Anche se l'avessero accettate, a mio avviso, le previsioni del piano industriale sarebbe stato molto difficile venissero realizzate, perché i ricavi crescono solo potenzialmente se ci si allunga, se ci si allarga molto sul lungo raggio, e non mi pare che ci siano le condizioni finanziarie per poterlo fare. 900 milioni di euro di cassa non è che ti possono consentire uno sviluppo a lungo termine su quel fronte. Per quanto riguarda l'abbattimento dei costi, da quello che mi risulta l'abbattimento del costo del lavoro avrebbe inciso per un terzo sull'abbattimento complessivo dei costi del piano, e la domanda è: e gli altri due terzi da dove vengono? E se vengono da qualche fonte concreta, perché finora non sono stati mai realizzati, solamente parole? Quindi la mia sensazione è che se anche avessero accettato questo referendum, l'Italia avrebbe avuto ossigeno per un altro paio d'anni e poi ci saremmo ritrovati esattamente nella situazione attuale. Sì, con le banche che iniettano capitale e poi un'operatività, insomma, che è una qualità dell'amministrazione dell'azienda che non è per nulla garantita. E che ti risulti, Marco? Le banche hanno espresso perplessità su questo piano, al di là del mettere la precondizione, diciamo, no? Che impressione, che sensazione hai avuto? Ma la genesi del piano è stata molto complessa, non dimentichiamo che c'è stato appunto l'ingresso di Gubitosi, pur non ancora formalmente diventato presidente, ma comunque un ingresso caldeggiato dalle banche, un piano che ha avuto diverse versioni, una primissima versione presentata dall'amministratore delegato, bocciata dalle banche, integrata, ma i numeri alla fine non sono cambiati tantissimo. L'impressione da un paio di settimane, cioè da quando si era firmato l'accordo al Ministero, insomma, quel giovedì notte, e che si viaggiasse su un filo veramente molto, molto sottile, nel senso che anche la parte finanziaria, cioè i 2 miliardi di nuove risorse, era liquidata con 3 righe, e in questi giorni su come si arrivasse a quei 2 miliardi sono girate N versioni, comprese da parte delle banche. Quindi si è avuta l'impressione che veramente si lasciasse un po' la palla nel campo dei lavoratori, perché comunque tutto il contesto fosse molto molto poco chiaro, a partire appunto dall'impegno in termini di nuove risorse e di vecchie risorse che le banche avrebbero dovuto dare. Non dimentichiamo il tema garanzie sul contingent equity, cioè su quelle che avrebbero potuto essere le future necessità di capitale, che alla fine sono state scaricate, tra l'altro in modo anche, se vogliamo, in parte surreale, su Invitalia, che era l'unico braccio pubblico che evidentemente si è trovato disponibile, che ha risposto al telefono quando il governo ha chiamato. L'immagine è bellissima comunque. Sì, perché serviva una garanzia che come dire, qualcuno avrebbe evidentemente messo nel capitale se ci fosse stato bisogno. Ed è un fatto insolito, perché se tu fai un piano industriale, quel piano è per sua definizione sostenibile. Prevedere la possibilità che serva dell'altro capitale è già un fatto insolito, che, ripeto, conferma veramente come la strada fosse già strettissima di per sé. Allora, io nel ringraziarti, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, lascio in linea il professor Sebastiani, perché ci sono c'è un elemento fondamentale sul quale vorrei tornare. Dal suo punto di vista, quale può essere appunto una strategia industriale, e se ne esiste davvero una per Alitalia per ritornare a produrre utili e ricavi? Però lo facciamo dopo la pausa. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. E va bene, eccoci qua di nuovo con Alitalia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Visto che il 49% è di Etihad, evidentemente Gianmarco Ferronato e Mauro Del Corno. Gianmarco Ferronato in regia, Mauro Del Corno in assistenza in redazione, hanno deciso di metterci questa base. Molto brevemente, poi torniamo al professor Mario Sebastiani, dal quale vorrei capire appunto quale può essere una strategia industriale decente per Alitalia, e se ce ne può essere una. Sono un paio di risposte agli ascoltatori. Il primo, che è sicuramente un lavoratore Alitalia, il quale ci dice: sono almeno 10 anni che i lavoratori hanno dimenticato privilegi ed arroganza. Io di questo non lo so, non ne sono sicuro, ma se si riferisce a quello che diceva il professor Sebastiani prima, il professor Sebastiani diceva che in passato li hanno difesi. In questa occasione forse qualche torto in questo referendum non ce l'avevano. Dall'altra parte, giusto per chiarire l'ascoltatore che dice: se si illudono di tornare sulle nostre spalle hanno capito male, e ci dice ho perso il lavoro ad agosto, la mia azienda, a differenza dell'Alitalia, faceva utili, e pensare di rinazionalizzare un'azienda di questo genere è sbagliato. Dico che mio personalissimo giudizio politico è politicamente impraticabile una rinazionalizzazione di Alitalia in questo momento, perché ci sono le amministrative alle porte, ci sono le politiche alle viste e non è sicuramente una mossa popolare. Diverso è se lo fai di traverso, scrive un altro ascoltatore, vedrai che arriva la Cassa Depositi e Prestiti a fare da ONG per Alitalia. Vedremo, vedremo se sarà davvero così. Torniamo sulla parte industriale. Professor Sebastiani, ci dica un po' come la vede da questo punto di vista. Ha ancora dei margini all'Italia oppure no? Margini ne vedo molto pochi, perché diciamo che la strategia di Alitalia avrebbe dovuto essere, e non so se ancora possa essere, ma avrebbe dovuto essere quella di andare ad operare in forze su quei mercati dove le compagnie aeree che hanno una struttura simile ad Alitalia, Air France, British Airways, Lufthansa e compagnia cantando, guadagnano. Quei mercati che sono redditizi anche per quella tipologia di compagnia aerea simile all'Italia. E al tempo stesso non abbandonare, questo è un po' il problema, quei collegamenti, intendo dire che i collegamenti redditizi sono quelli di lungo raggio, i collegamenti intercontinentali, dove c'è, come dire, una domanda business disposta a pagare prezzi molto elevati a fronte di servizi elastici, molte frequenze, molti voli e tutto il resto. Al tempo stesso senza abbandonare i voli domestici, cioè nazionali o europei, dove la concorrenza delle compagnie low cost è fortissima, ma che però servono ad una compagnia grande ad alimentare i voli di lungo raggio. Quindi questi voli di lungo raggio dovrebbero rendere tanto da coprire anche le perdite che si possono avere sui voli più brevi. Ora, l'Italia non ha materialmente la forza finanziaria per poter fare questa operazione, a mio avviso. I 900 milioni, perché sono solo 900 milioni di cassa che arriverebbero da questo piano di ristrutturazione, non sono sufficienti per uno sviluppo forte in quella direzione. Ma secondo lei, professore, gli spazi industriali ci sono ancora o è un mercato che si sta saturando anche con altre compagnie? Io temo che questo sia un po' la situazione, perché è vero che la domanda cresce, ma cresce anche molto l'offerta di quelle compagnie che ormai hanno una base di forza tale che è difficile andarla a contrastare. D'altra parte la politica delle alleanze che ha fatto all'Italia è stata una politica sulla base di posizioni di debolezza, per cui è chiaro che le negoziazioni che è andata a fare sono fatto hanno avvantaggiato i suoi partner anziché l'Italia stessa. L'impressione che ricavo da quello che ci sta dicendo, professore, la dico molto brutalmente, o si tiene in vita all'Italia con iniezioni di capitale pubblico, eventualmente un po' di capitale privato, oppure non ce n'è, cioè è un'azienda destinata a chiudere secondo lei? Se il capitale pubblico o privato che affluisse in Alitalia fosse molto elevato, e non parlo di 900 milioni ma molto di più, forse sarebbe ancora possibile forse riprendere in mano la situazione, ma io la nazionalizzazione, come si diceva prima, la vedo politicamente molto difficile, che sì, sia fatta attraverso in ogni caso la Cassa Depositi e Prestiti o qualche altra entità pubblica, resterebbe sempre lo scoglio dell'Unione Europea, che è vero sembrerebbe abbia fatto in queste ore una qualche informale apertura. Però è tutto da vedere, perché certo, come dire, ammesso che l'apertura ci sia, poi va verificata sulla base di un piano industriale ancora una volta. E certo. La ringrazio, grazie al professor Mario Sebastiani per essere stato con noi, economista a Tor Vergata e editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, e noi passiamo a parlare di Francia. Sì, sì, poi andiamo anche ai mercati. Parliamo di Francia e abbiamo in studio con noi Attilio Geroni del Sole 24 Ore. Attilio, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, bentornato ai nostri microfoni per parlare soprattutto di come sono andate geograficamente queste elezioni francesi. Perché la realtà è che abbiamo visto in azione un fenomeno, si diceva già in apertura, che abbiamo già visto con la Brexit e anche con l'elezione del presidente americano. Ci sono quelle aree che hanno sofferto di più la globalizzazione, che sono state deindustrializzate o che si sono deindustrializzate semplicemente perché i capitali si sono spostati da altre parti, che sostanzialmente sono andate a votare per quella che possiamo definire la protesta per la Le Pen, sostanzialmente, così come hanno votato per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e hanno votato per Trump, e le aree invece più ricche che hanno vissuto i benefici della globalizzazione invece che hanno votato in questo caso per Macron. Attilio, mi sembra che il quadro geografico sia questo, no? Beh, abbiamo visto un paese spaccato, più di qualsiasi commento, analisi, approfondimento, le cartine pubblicate ieri sulla geografia del voto, cioè dove hanno vinto i quattro candidati, vedi una Francia spaccata, divisa in due, il nord, nord-est e sud-est, insomma, dove ha vinto la candidata del Fronte Nazionale, è arrivata prima, Marine Le Pen. Hai l'ovest e il sud-ovest e una parte del centro, dove si è classificato primo Macron. Quindi hai queste due Francie. E, tra l'altro, il sud-est è una terra di vecchia conquista tradizionale del Front National. Il Front National è nato nel sud-est della Francia. La conquista più nuova, più recente, è quella che riguarda il nord e il nord-est, cioè sono le ex zone industriali dell'industria pesante, dell'industria tessile e dell'industria mineraria che sono andate incontro, come dicevi tu prima, un processo di deindustrializzazione molto forzato, alla chiusura di impianti, alla chiusura di miniere. La chiusura delle miniere risale a 25 anni fa, chiusura di fabbriche tessili. Ed è lì il tasso di disoccupazione è più alto della media nazionale. Ci sono punte come il famoso feudo elettorale di Marine Le Pen e Hénin Beaumont, ex centro minerario, dove la disoccupazione è al 15,5% contro una media nazionale del 10%. Tre anni fa era addirittura al 18%, quindi è come l'America, no? Non ci sono i Monti Appalachi, ma c'è il nord, il nord-est e il sud-est che ci raccontano questa storia. Sì, tra l'altro nelle cartine, in una delle cartine che pubblicate anche oggi sul Sole 24 Ore, è proprio impressionante vedere il Parigi letteralmente circondata, nel senso che l'area di Parigi e dell'Île-de-France è di Macron, e anche saldamente, cioè Parigi ha votato ampiamente a favore di Macron, e tutto intorno a quell'area è tutta Le Pen. È un altro fenomeno interessante, cioè la terza zona di conquista, no? La più recente, abbiamo sud-est, nord-nord-est, e sono le cosiddette zone periurbane, quelle un po' fuori, cioè al limite delle periferie dei grandi centri. Anche lì il Front National si è ben radicato, sono zone di passaggio, zone di transizione, confine tra un dipartimento e l'altro, zone lontane dai grandi assi di comunicazione, a ridosso dei grandi e medi centri urbani. Anche lì il fenomeno Le Pen è diventato un fenomeno di territorio territoriale. C'è qualcuno che ci suggerisce via SMS, via WhatsApp, qualche ascoltatore, il binomio modernità-conservazione, no? È un po' questo che leggi, o è semplicemente appunto una lettura derivata dalla crisi e appunto dagli effetti della globalizzazione su una fetta dell'Occidente? Non tutti hanno avuto, come dire, lo stesso effetto, hanno saputo rispondere o comunque sono stati beneficiari della globalizzazione. Queste sono aree dove la classe operaia era forte, la classe operaia un tempo votava Partito Comunista e Partito Socialista, adesso vota il Front National. Non è solo la classe operaia, è la piccola borghesia impiegatizia che ha visto fermarsi in questi anni l'ascensore sociale, cioè le prospettive di migliorare le proprie condizioni o si sono fermate o si sono enormemente rallentate. La cosa strana è che nel nord, il nord, ad esempio la provincia del Passo di Calais, Pas de Calais, è una zona dove non ci sono stranieri, cioè il numero di stranieri è tra i più bassi in Francia, quindi la questione immigrazione non è dirimente. Prende poco, non è dirimente. Prende poco, e sono gli sconfitti e vincitori della globalizzazione quelli che hanno saputo reagire meglio. Ad esempio, un'altra categoria sono i piccoli agricoltori. Io ne ho visitati in un viaggio di un paio di settimane fa, famiglia di agricoltori, piccoli agricoltori, lì è un condensato di tutto quello che loro detestano della globalizzazione, la grande distribuzione che comprime i loro margini, l'Unione Europea che impone degli standard di produzione, sono produttori di formaggio assurdi, loro dicono ma noi abbiamo il latte vaccino delle mucche di Normandia sul pascolo libero, figurati la qualità del nostro prodotto, non basta. Arriva il carico da 90 della Commissione Europea che ci pone dei requisiti, quindi dei costi aggiuntivi. Allora, io ti ringrazio. Grazie a Attilio Geroni del Sole 24 Ore per averci aiutato a dare anche questo quadro, e vedremo poi quanto questo quadro avrà, questo quadro che abbiamo tracciato, questo quadro che è insieme geografico ed economico, quanto questo quadro avrà un impatto ovviamente sul secondo turno dei presidenziali francesi che continueremo a seguire. Grazie dunque a Attilio Geroni, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi che cosa ci manca? Ci mancano i mercati. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, solo una risposta ad un ascoltatore che chiede: ma come siete certi che vincerà Macron? Guardi, a questo punto, visti come sono andati gli appuntamenti elettorali degli ultimi anni, non siamo certi di alcunché. Così lo chiariamo, lo diciamo subito, e se vince Le Pen non venite qua a dirci ah ma voi avete sostenuto che avrebbe vinto Macron. No. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Ciao Andrea, buonasera e buona festa della liberazione anche a te. Grazie Simone, buonasera a te. Allora, giornata di borsa che è stata di lieve rialzo, poi è arrivata a Wall Street e ha dato una spinta ulteriore, no? Sì, assolutamente, magari non sufficiente per chiudere sui livelli toccati all'apertura di Wall Street, quindi con una Milano che guadagnava addirittura l'1%, quindi c'è stato poi un rientro sul finale, ma sicuramente per consolidare i livelli che sono stati raggiunti ieri, sia per Milano che sta sui massimi dal mese di gennaio, dalla prima parte di gennaio, sia per esempio per i bancari italiani, cui l'indice sta addirittura ai massimi dal maggio scorso, quindi acquisti sulle banche, sulla farmaceutica, sul settore tecnologico, quindi una performance positiva, anche se chiaramente contenuta rispetto a ieri, aspettando due giorni importanti, le indicazioni, il programma fiscale annunciato da Trump e che probabilmente sarà svelato domani, e l'appuntamento con la Banca Centrale Europea di giovedì. Dicevi le banche, BPM più 3,03%, Bibanca più 2,81%, Unicredit più 2,46, Intesa San Paolo più 2%, bene anche Mediobanca oggi che guadagna l'1,5%, quindi appunto ben intonato tutto il settore bancario. Però il titolo migliore sul listino principale oggi è ST Microelectronics, che chiude con un rialzo del 4,32%, come mai? Sono state le indicazioni sul settore che sono arrivate da un gruppo austriaco, sempre di chip, di semiconduttori, che è AMS, che ha alzato le sue prospettive per l'esercizio 2017, aspettandosi proprio un'accelerazione nella seconda parte dell'anno. Già ieri a Wall Street ST Microelectronics era ben comportata proprio sulle indicazioni arrivate ieri sera dal gruppo austriaco, e oggi ancora ha messo a segno una forte performance. ST, ricordiamolo, è ai massimi praticamente da 10 anni, dal 2007, e sta ancora allungando nel suo rialzo con le recenti performance. A seguire subito c'è Saipem più 3,04%. Sì, bene Saipem, nonostante un petrolio che ormai scende ininterrottamente in pratica dall'11 aprile scorso, che attualmente è a New York intorno ai $49 al barile. Saipem invece oggi ha guadagnato sulle indicazioni arrivate proprio dal riportate dal Sole 24 Ore sulla probabile partecipazione in coppia con le Ferrovie dello Stato a una gara per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità in Russia da Mosca a Kazan, una gara, quindi un appalto che potrebbe, una commessa che potrebbe essere importante più che altro nell'ottica di diversificazione delle attività di Saipem, visto che sono concentrate in questa fase sul settore petrolio e gas e vista la difficoltà e soprattutto i prezzi del petrolio attuale, conoscono sono un elemento di criticità per Saipem. Allora abbiamo detto ST Microelectronics, Saipem, a seguire abbiamo due bancari, BPM e UBibanca e poi CNH. Sì, anche per CNH il motivo del rialzo arriva da lontano, in particolare dai conti del primo trimestre diffusi da Caterpillar, il gruppo americano di macchine per le costruzioni, conti che hanno visto nelle vendite il primo rialzo anno su anno nel primo trimestre praticamente da due anni e mezzo, e anche se CNH Industrial è meno focalizzata sulle macchine per le costruzioni perché è più esposta sulle macchine per il settore agricolo, comunque le indicazioni in Caterpillar segnalano una inversione di tendenza, un risveglio di questo comparto che comunque pesa circa un 10% sul fatturato di CNH Industrial, e da qui si spiega il rialzo odierno. Oggi, ne abbiamo riferito poco fa, c'è stata l'assemblea di Vivendi, ha parlato Bolloré, ma soprattutto ha parlato il numero 2, De Puy Fontaine, ha detto con Mediaset non è cominciata benissimo, il nostro obiettivo è creare una relazione costruttiva e perenne, la nostra ambizione resta invariata, il meglio deve ancora venire, si è parlato ovviamente anche di Telecom Italia, come si sono comportati i due titoli oggi? Molto meglio Telecom Italia, che è arrivata a guadagnare anche oltre il 2%, ha chiuso a più 1,5%, Mediaset è stata piatta per la buona parte della giornata, ma poi ha avuto un finale in crescendo con un più 0,7%, questo si spiega con il fatto che Vivendi, già in un comunicato di qualche giorno fa e ancora oggi con le parole di De Puy Fontaine, ha ribadito l'interesse a rimanere socio di lungo termine in Telecom Italia, di cui detiene il poco meno del 25% e di cui si presta a rinnovare il consiglio di amministrazione con l'ingresso di importanti esponenti del gruppo francese, lo stesso De Puy Fontaine ha impredicato diventare il presidente di Telecom. Per quanto riguarda Mediaset invece non è ancora chiaro il futuro, è vero che Vivendi ha da una parte detto che rispetterà i dettami, la pronuncia dell'autorità delle comunicazioni italiana che ha chiesto di ridurre la propria partecipazione, la propria concentrazione tra telecomunicazioni e media, dall'altro canto ha detto che vuole mantenere un'alleanza forte con Mediaset, quindi c'è un po' di incertezza per questi titoli. Mediaset sono rimasti piuttosto guardinghi oggi. Allora grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Titoli negativi: Atlantia meno 2,5, Snam meno 2,2, Terna meno 1,69. È tutto per questa puntata di Focus Economia del 25 aprile. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17 con Sebastiano Barisoni, grazie a Gianmarco Ferronato in regia, Mauro Del Corno in assistenza e redazione. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.